Ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Siete all'ascolto della settima puntata di Il Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Sono Salvatore e questo viaggio che faccio insieme a Raff, che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Stiamo approfondendo le galassie dell'estrema destra e dei nuovi fascismi sia in Italia che in Europa. E in questa puntata siamo felici di avere ai nostri microfoni Elia Rosati. Elia svolge attività didattiche e di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche, il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano. Si occupa di neofascismo italiano e delle nuove destre europee, collaborando con giornali, media indipendenti. Ha scritto Casa Pound Italia, Fascisti del Terzo Millennio, un secondo libro che è Storia di Ordine Nuovo, libro scritto a quattro mani insieme a Aldo Giannulli, e infine del 2021 è L'Europa in camicia nera, l'estrema destra degli anni dagli anni 90 a oggi. Ciao Elia, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutte e tutti. Elia, senti, qual è oggi il panorama in Italia, in Europa, del mondo extraparlamentare di estrema destra? Allora, come potete immaginare, per comprendere il mondo dell'estremismo di destra, diciamo, esterno al piano rappresentativo parlamentare, la cosa migliore è prendere, secondo me, due parametri, perché c'è una difficoltà iniziale. I movimenti di estrema destra sono molto tarati sui propri territori, quindi anche quando si ricostruiscono o si fanno delle esposizioni ampie, bisogna tenere presente che si possono trovare delle tendenze o si possono trovare si possono fare dei paragoni, ma non si trova mai un modello che appiattisce tutto. Perché i contesti territoriali, le storie territoriali, anche le storie delle varie destre nei vari territori sono completamente diverse. Come potete immaginare, comunque, da paesi che hanno vissuto, diciamo, dittature fasciste negli anni, prima della Seconda Guerra Mondiale, hanno un certo tipo di storia, il mondo fascista. Non parliamo dell'Europa dell'Est che è stata sotto il patto di Varsavia, oppure di paesi che hanno avuto dittature più recenti, come la Spagna, come la Grecia, o anche paesi che si sono scontrati con l'asse, come la Francia o l'Inghilterra, o quello che succede in Germania con il grande spartiacque della riunificazione. Questa cosa ovviamente complica molto il quadro, quindi c'è da fare questa premessa. È difficile fare dei paragoni totalmente al 100%, cioè proprio a stampo. Dall'altra parte però va detto anche che l'estremismo di destra giovanile non ha copyright, nel senso che molto spesso nei vari contesti, soprattutto quelli che vengono da sottoculture, come penso quello che è stata la grande, come dire, rivoluzione nel mondo dell'estremismo di destra dagli anni 80, fondamentalmente all'inizio degli anni 2000, che è stata la massiccia ingresso della cultura Bonez all'interno dell'estremismo di destra, quelli che giornalisticamente vengono chiamati Nazi skin, ma questa cosa qui ha comportato, diciamo, anche qui un maggiore omogeneità su alcune cose, soprattutto come si intendeva la militanza, come si intendeva la socialità intorno alla militanza, come ci si organizzava. E dall'altra parte esistono dei modelli vincenti che sono stati copiati nei vari paesi. Faccio un esempio, Alba Dorato, faccio un altro esempio, Casa Pound. Questi sono prima ancora l'MPD tedesco. Quindi ci sono quindi delle specificità locali e, come dire, dei modelli ricorrenti nei vari paesi, che spesso vanno a creare anche delle sorte di piccole internazionali nere, che fondamentalmente provano sempre a corrispondere a quella fascia di questi movimenti che è fra partito e auto-organizzazione giovanile, che molto spesso magari prova le europee, per esempio. Per noi è stata la storia di Forza Nuova per quanto riguarda l'Italia, ma ci sono. Potremmo parlare di Democrazia Nazionale, potremmo parlare dell'MPD, appunto, potremmo parlare della ricostituzione della Guardia di Ferro in Romania. Cioè, ci sono delle cose che hanno provato a fare il partitino che poi se la gioca, diciamo, o nel locale o nel Parlamento europeo, quale volte anche con qualche minimo successo. Dall'altra parte ci sono stati invece gruppi completamente organizzati, giovanili, che hanno quindi puntato su, diciamo, aggregare appunto e costruire la loro militanza dal punto di vista anche di un certo appeal che negli ultimi anni è diventato anche social, per capirci, inevitabilmente. E su questo la più grande innovazione l'hanno portata gli italiani come Casa Pound, diciamo, mentre prima invece sopravviveva quel livello di piccole bande o di piccole organizzazioni nazionali molto militarizzate, che erano quasi dei partiti di milizia, ma diciamo la grande innovazione di Casa Pound è stata quella di riuscire a costruire una militanza neofascista che partisse dalla cosiddetta metapolitica, cioè partisse da molti progetti collaterali di natura anche sociale e ricreativa e che arrivasse dopo a costruire un'organizzazione che per la prima volta in Italia, ma anche in Europa, ricostituiva una scuola quadri, si dava una propria identità, una propria mitologia, una propria scuola quadri, una propria gerarchia interna, che rompeva molti tabù a destra e che quindi andava a prendere il posto di organizzazioni un po' più vecchie. Diciamo che se noi dobbiamo contare questo, possiamo dire che negli anni Ottanta era abbastanza dominante il piano delle bande locali Bonez, che avevano quindi una loro presenza nelle grandi città, soprattutto nelle periferie delle grandi città, e dall'altra parte si aggregavano intorno a circuiti di musica Oi, nazi Oi, che quindi portavano questa socialità in un ambiente abbastanza clandestino. Poi, come potete immaginare, le sottoculture, come era quella a cui si ispiravano, che viene detta skinheads, ma in realtà è corretto dire bonez, perché sono ovviamente una declinazione eretica di quello che era stato il movimento skinheads dagli anni 60, fine anni 60 in poi in Inghilterra, questa cosa generava per qualcosa di po' che non riusciva ad avere un grande coordinamento politico. Quindi restavano delle bande in alcuni contesti locali, per quanto anche grosse, che avevano magari un'internità in alcune tifoserie di calcio, ma che fondamentalmente mutuavano il loro modello da quello inglese, con un passaggio importante in Francia e in Germania. E questa cosa però era diventata il nuovo estremismo di destra negli anni 80, con un grande revival molto forte negli anni 90, dopo la riunificazione tedesca, perché i gruppi principali di questo mondo, quelli che avevano provato a darsi una struttura politica, erano in Inghilterra e in Francia. Ma invece, come dire, la Germania, che era sempre rimasta dal punto di vista di bande, quindi non aveva mai provato a fare un'organizzazione più centralizzata di queste bande, per quanto ci potessero riuscire, invece ha avuto, diciamo, le azioni più forti, i roghi di Rostock, omicidi, quindi dopo la riunificazione. E lì, infatti, sui giornali, se guardate quel periodo, c'era l'allarme nazi-skin, la nostra legge Mancino, la famosa legge Mancino sull'istigazione all'odio razziale, nasce in quel contesto lì e smantella infatti le due organizzazioni più importanti di questo mondo qui, Azione Skinhead a Milano e Base Autonoma a Roma, mentre sopravvive soltanto il Veneto Fronte Skinhead. Quindi quel mondo Bonez viene in qualche maniera a essere dominante tra 80 e inizio 90. Fine 90 invece cominciano a esserci organizzazioni più strutturate, un po' in tutta Europa, che però hanno lo schema, io lo chiamo dell'Empede tedesco, cioè del partito neonazista, che però, come dire, si muove in contesti in cui si deve dare una piccola veste differente, quindi nazional popolare, nazional rivoluzionario, nazionalista patriottico, peronista, no. E da noi è stata Forza Nuova. Perché però noi viviamo una cosa particolare, cioè la riorganizzazione delle nostre destre avviene nell'epoca in cui Berlusconi ha già sfondato, quindi anche con un rientro di latitanti, che venivano dalle ultime propaggini, diciamo, delle inchieste degli anni 70 su Bologna, sull'estremismo nero di Bologna, ma anche nelle loro città. E questo sicuramente è il modello che tiene botta fino a compresi gli anni 2000. Poi arriva invece il modello metapolitico giovanile alla Casa Pound, e quindi nascono delle cose simili. Penso anche come ottica attualmente Dritte Weg in Germania. Penso ad alcune cose in Scandinavia. Ci sono stati dei tentativi di fare gruppi simili, proprio gemellati con Casa Pound a Madrid e a Lione, ma comunque l'idea del centro sociale di destra, cioè l'idea del gruppo anche molto noto, che ha dei luoghi di ritrovo, che ha le sue palestre, che ha il suo logo, che ha un approccio muscolare alla militanza, è senz'altro quello che che continua. Ecco, queste tre esperienze, quindi quella delle bande bonnets, quella dei partitini milizia e quella invece delle organizzazioni giovanili che alle volte sono partito, alle volte no, ma comunque dando una militanza giovanile squadrista, come potrebbe anche essere Alba Dorata per quanto riguarda la Grecia, sono invece corrispondenti agli anni della grande crisi in Europa. Ecco, questi tre modelli sussistono ancora. C'è chi sta meglio in un paese, chi sta peggio in un altro paese, ma più o meno ci siamo. Io facevo degli esempi italiani o di altri contesti e quelli stanno meglio, in altri contesti ancora c'è qualcos'altro. C'è poi un discorso particolare sull'est europeo, perché come potete immaginare lì, diciamo, alcune gabbie interpretative saltano. E l'altro grande tema è quanto questo mondo riesce a relazionarsi con invece i partiti di destra radicale. Questo poi è l'altro grande tema. Allora, mi accodo a questa evoluzione di queste formazioni, diciamo, ma c'è un progetto politico comune oppure ognuno è un laboratorio autonomo indipendente? No, no, non c'è un progetto politico comune, cioè si tratta anche di un ambiente molto conflittuale e molto in competizione l'un con l'altro. E questo, per esempio, è sempre stato il problema delle seconde tipologie, cioè quelle del partitino milizia, quello del partitino neonazista che non può dirlo, NPD, Forza Nuova, Democrazia Nazionale, a un certo punto, anche se un po' diverso, Alba Dorata, alcune formazioni rumene o bulgare. Cioè di essere dei grandi serbatoi per un estremismo che poi andava ad altre parti. Quindi continue scissioni, continue uscite, erano un po' porte girevoli. Non riuscire a controllare le parti più estremiste o non riuscire a fare mai il salto di qualità elettorale, quindi non c'è un progetto comune. Diciamo che le bande non ce l'hanno mai avuto, le bande Bonez. Invece i movimenti dell'ultima generazione, quelli della crisi, hanno sempre puntato a un'altra cosa però, a entrare nel dibattito pubblico della destra e quindi giocarsela sull'egemonia culturale, quindi gli fa molto più gioco che i primi a dire prima agli italiani è stata Casa Pound rispetto a Salvini, piuttosto che avere 10 deputati, perché la loro forza nella società è essere appunto dei fascisti legittimati adesso. Quindi se voi andate anche, io resto a degli esempi italiani perché sono anche più guardabili anche online, ma potremmo farne anche tedeschi. Un'intervista a Roberto Fiore di Forza Nuova, quando si candidava, se voi andate a vedervi anche porta a porta con Bruno Vespa, le 100.000 domande è: ma voi siete fascisti? Voi non siete fascisti? No, siete peronisti, ma mi faccia capire. Era tutto così, e c'era un giochino di aggettivi, di questo, come l'NPD tedesco, come era il Front National una volta in Germania, in Francia, mentre invece altri gruppi ti dicono marcatamente noi non siamo fascisti, quindi il discorso si chiude. Ma questo avviene negli anni della crisi, diciamo, quindi dal 2009 al 2018. Poi la pandemia potremmo parlarne di come ha rimescolato le carte, però nel senso più o meno il progetto comune non c'è. È un ambiente estremamente litigioso. Quindi, per esempio, parlare di fascisti non ha in qualche maniera. Sì, è una categoria politologica, si muovono insieme, ma le alleanze, i tradimenti, le coltellate alle spalle, le competizioni o gli scontri sono all'ordine del giorno. Chiaro. No. Quindi non esiste una rete connettiva. Esistono delle alleanze di scopo. Esistono delle alleanze di scopo. Ma per esempio, nel momento in cui un gruppo diventa abbastanza influente o forte o visibile alle volte, perché è questione di visibilità, e si vuole relazionare con i grandi partiti di destra dei propri paesi, ormai ce ne sono, ma parliamo di partiti grossi, ok, grossi, cioè relazionarsi con la Lega, con Fratelli d'Italia, col Front National, con la Alternative für Deutschland, lì lo vuoi fare da solo, non lo fai come esponente di un ambiente, lo vuoi fare la tua organizzazione. Chiaro. Ma secondo te poi, tra l'estrema destra europea occidentale, i gruppi di estrema destra dell'Europa dell'Est, ma mettiamoci anche quelli statunitense, esistono differenze ideologiche o politiche, al netto che abbiano tutti la stessa matrice, diciamo? Allora, questa è un'altra cosa, diciamo, interessante, nel senso che i fascisti non hanno una matrice, cioè loro teorizzano un'altra cosa. Infatti, il fascismo, cioè, perché c'è il fascio come logo? Mussolini sceglie il fascio perché è un bastone che tiene insieme, cioè è un appunto, ci sono tante verghe, tanti bastoni che sono tenuti insieme da un nastro. Cioè, Mussolini conosce la pluralità. Tanto è vero che dovremmo parlare di fascismi, Cioè, nel momento in cui noi abbiamo Codreanu rumeno o Léon de Grel del razzismo belga o il franchismo o diciamo il Terzo Reich con Tiriardo, Ordine Nouveau, Ordine Nuovo, noi abbiamo una pluralità di posizioni. Diciamo che possiamo trovare uno schema comune. Lo schema comune è che tutti questi, ma come lo teorizzano anche i loro teorici, perché anche i fascisti scrivono, hanno dei teorici, hanno dei punti di riferimento, forse il più importante in Europa è Julius Evola. Come l'italiano Julius Evola? Come stanno insieme le cose? La loro lotta contro l'uguaglianza. Cioè ritenere che i rapporti sociali debbano essere improntati alla natura. Quindi, come dire, tutto ciò che stravolge quindi le gerarchie naturali tra uomo, donna, nella società, dal punto di vista sacrale o neopagano, non importa, ma tutto ciò che rompe lo schema sociale rigido, granitico, che ci dà la natura, con quindi uno schema che è improntato alla differenza, cioè e sono importanti le differenze sono gerarchia, il loro problema è contro l'uguaglianza e contro chi rompe queste gerarchie. Questo è il vero punto. Quindi se rompi la nazione, rompi la patria, rompi la famiglia tradizionale, la lotta di classe che sovverte i livelli sociali, gerarchici nel lavoro, dal punto di vista del legame con la storia patria ancestrale, tradizionale, religiosa. Poi sono diversissimi su questo, diversissimi. Però sono tutti in lotta, lo dice Evola, contro l'esercito dell'uguaglianza, che loro vedono essere un qualcosa che dalla Rivoluzione francese a noi ha portato uno stravolgimento. E qui ci sta anche l'idea del complotto. Cioè la gente naturalmente è portata delle gerarchie, ma per l'azione, che sia giudaico, massonica, marxista, questa cosa si rompe e viene imposto un altro schema legato all'uguaglianza che è uno schema falso, cioè gli uomini non sono uguali fra di loro, questa è la verità, e non lo sono per questioni sacrali naturali. Questa è la cosa che li accomuna, questo li accomuna tutti. Poi puoi avere, in questo mondo infatti, tu puoi avere il neopagano come il tradizionalista cattolico ortodosso, puoi avere l'American First di Trump, come puoi avere come dire il Vance Belag che vuole l'autonomia fiamminga, cioè vallona, cioè nel senso ci sta dentro tutto, è il grande esercito della differenza contro l'uguaglianza, che è quello che loro concretizzano nell'idea del loro sono la guerra del sangue contro l'oro, cioè loro sono il sangue, sono l'identità, questo è il punto, sono l'identità ancestrale di una terra che è fatta di appunto terra e sangue, e invece l'oro, il denaro, la ricchezza, lo stravolgimento invece è mette insieme dal capitalismo al comunismo, e quindi loro sono diciamo l'esercito del sangue, è un termine hitleriano del resto. Quindi come vedete voi potete trovare che in una sede o nelle letture o nell'iconografia, anche ormai grafica da tempo, hanno sviluppato una capacità grafica interessante, diciamo, recuperando sull'estrema sinistra, che loro hanno sempre visto anche un po' per copiare da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo e grafico, tu puoi trovare anche dei fascisti diversissimi, o puoi trovare dei riferimenti alla Vandea, nella Rivoluzione francese, ma come sta insieme tutto questo? Contro l'uguaglianza, questo è il vero tema. Puoi essere più protezionista, più neoliberista, puoi essere più statalista, non importa. Il punto vero è che le gerarchie naturali della società non si devono toccare. Volevo tornare all'attualità invece. Alcuni giorni fa l'associazione Dora, la comunità militante dei 12 raggi, sì, che è vicina alle associazioni skinhead del nord Italia, ha esposto uno striscione davanti al Sagrato dei Partigiani a Cuveglio. L'associazione Dora però è indagata da 7 anni per tentativo di costruzione del partito fascista, e anche il suo presidente Alessandro Linido ha subito già una condanna per apologia di fascismo. E nonostante questo vengono dati sempre degli spazi, anche spazi pubblici, a queste associazioni, che a volte si nascondono anche sotto sigle diverse. Com'è possibile che tutto questo non produca, non dico un'indignazione, ma soprattutto una, sì, un'indignazione contro questo proliferare di queste idee naziste, in questo caso. Ma allora, oggi c'è un... Allora, questo, parliamo, per quanto riguarda i Dora, parliamo di un gruppo che appunto viene dal contesto delle bande, perché viene dal contesto delle bande, si trova in una zona, diciamo, non metropolitana, perché siamo nella zona di Varese, ma si è voluto dare, anche per il, diciamo, per interesse del suo leader, si è voluto dare una forte propensione pubblica. Forte propensione pubblica, e loro hanno capito questa cosa fondamentalmente, che oggi il nazista può andare in televisione. Questa è la verità. Da nazista, questo è il punto. Se poi vogliamo parlare invece dell'incidenza dei reati contro i fascisti in Italia, dobbiamo cominciare a pensare che è una legislazione antiquata, ma soprattutto che non viene applicata, perché tu fai riferimento alle condanne, ma se tu vai a vedere le assoluzioni per i saluti romani, vai a vedere le imputazioni che cadono, poi capisci bene che noi sappiamo soltanto la condanna, ma ad esempio io che vivo a Milano, nel corteo del loro grande corteo unico, che è quello per Sergio Ramelli, a cui aggiungono Pedenovi e Borsani, quindi aggiungono un ex piccolo gerarca fascista ucciso dai partigiani e poi un consigliere provinciale dell'MSI ucciso da un comando di estrema sinistra, sempre il 20, e fanno il grande corteo. Quest'anno, nel 2025, ci sarà siccome l'anniversario della morte di Ramelli nel 75, ci sarà un molto più grosso questo corteo, lo sarà come sempre, e vengono un po' tutti, diciamo, dalla zona lombarda. Allora tu vai a vedere che loro fanno il presente con i saluti romani, sono più le assoluzioni che le condanne. Cioè il punto è vero, è che queste leggi non bloccano, la magistratura non le applica, cioè le applica una volta su 20, e dall'altra parte loro hanno capito che c'è uno spazio mediatico, cioè se voi sentite le interviste, cioè sei nazista, sì, sono nazista, entro nella serie d'ora dove sono le svastiche, cioè loro... Per quanto si becchino la condanna o si becchino la perquisizione o si becchino, come dire, la denuncia, la cosa non li tocca granché, prima di tutto anche per un'ottica che loro si sentono già di loro perseguitati e aggregano anche su questo, di essere perseguitati. Va detto però che i Dora sono una storia molto locale, notori Varese, una storia molto molto locale di quel territorio, però effettivamente in Italia non c'è un gruppo, a mio modo di vedere, esattamente così che può andare anche sulla 7. Questa è una cosa che hanno capito i fascisti, che era cominciata addirittura con Le Pen padre, cioè il neofascista, il razzista, in televisione funziona, cioè nel circo mediatico questa cosa funziona. Quindi non c'è più una censura comunicativa su questo. Tu hai accesso a ogni tipo di rete nazionale. Questo lo capì Jean-Marie Le Pen, quando le famose battute sull'olocausto di Jean-Marie Le Pen erano fatte in televisione e in radio. E lo chiamavano per questo, perché aspettavano la battuta antisemita. Infatti i giornalisti con questi ci vanno a nozze, ci vanno tutti. Perché? Perché chi è che ti dice che sono nazista? Però oggi il punto è che tu hai alzato talmente l'asticella di quello che puoi dire culturalmente, che ci sta pure questo. Chiaro. Senti Lia, tu prima hai parlato, hai detto hai citato il Covid. È un punto di svolta di questi ultimi anni. Può essere proprio, diciamo, gli anni di Covid che hanno riportato le nuove destre a rinvigorirsi e a farsi anche promotrice di quei sentimenti Novax, ideologie negazioniste legate ancora di più al populismo? Allora, sicuramente culturalmente il mondo di destra concepisce le dinamiche storiche come complotti. Cioè il mondo dei fascismi, perché sempre usare il plurale, legge la storia, cioè immagina la storia come non una cronologia, ma come uno scontro con l'identità ancestrale. Perché loro ritengono, per esempio, che la storia come la conosciamo noi, cioè le cronologie, l'interazione fra fatti, sia un qualcosa di illuminista, quindi sia una di quelle tante cose false, una di quelle tante cose false che si impone invece sulla la vita e la storia tradizionale, in cui nella storia tradizionale, come dire, un figlio fa lo stesso lavoro del padre ed è giusto, la donna sta in quel ruolo sociale così, cioè il governo ha quel ruolo sociale così, quindi, e poi chi lo altra è un complotto. Cioè non è un moto di popolo, ma è qualcuno che è sempre oscuro, che può essere che potevano essere il complotto giudaico, come poteva essere il Big Pharma adesso, che poi vanno a collegare fondamentalmente, nelle varie sue accezioni, come dire, causa queste cose. Quindi sicuramente il mondo di destra è abituato a produrre fake news e a essere influenzato da fake news, questa è la verità, proprio culturalmente. Quindi è chiaro che determinate visioni lì hanno terreno fertile. Però devo dire la verità, onestamente, cioè l'impatto dei cosiddetti movimenti Novax e poi nei vari paesi stati diversi, in realtà non hanno riempito le sedi neonaziste o neofasciste di militanti. Gli hanno sicuramente dato un'occasione di poter andare in piazza, cosa che non è scontata per loro, poter avere l'agibilità di andare in piazza, da una parte. Dall'altra parte, come dire, loro comunque stanno in questa dialettica complottista, quindi una cosa che loro preme molto, possono avere una voce una voce che è paritaria a quella degli altri. Dall'altra parte, però, c'è da dire anche questo: tutti quelli che avevano progetti sociali di assistenza a fasce basse o li millantavano, e penso per esempio ai famosi, noi se avessimo fatto questo dibattito avremmo parlato delle periferie dei pacchi di pasta. Quella cosa lì si è stata spianata, non esiste, cioè non esisteva e non esiste. Cioè il Covid ha visto un'attivazione di parrocchie, giovani di estrema sinistra, organizzazioni solidariste, loro non sono riusciti a fare il prima agli italiani durante il Covid. Quindi evidentemente questa macchina da guerra dei pacchi nelle periferie, della pasta agli italiani poveri, evidentemente non era questa gigantesca armata che occupava con le bandiere nere le periferie, perché non ci ha manco provato. Qui a Milano abbiamo l'Altazione, che è un'altra cosa interessante come tipologia, perché è l'evoluzione del mondo bonaerense. Questa è proprio l'evoluzione, diciamo, metapolitica del mondo bonaerense, ormai è lontano dalla tipologia sottoculturale skinhead, però mantiene, diciamo, dei pezzi di quello, perché da Yammer Skin fanno un'organizzazione pseudo di massa nella loro ottica, stante il fatto che pensate che i fascisti non interessa essere tanti, cioè nella loro cultura non interessa essere tanti. Anzi, più pochi sono, più sono puri e meglio è. Cioè loro, i fascisti non sono mai stati organizzazioni di massa, manco il fascismo mussoliniano lui non l'è mai stato. Sono, come dire, intruppati, ma sono pochi, anche fieri di essere pochi. Pensate, Ordine Nuovo è arrivato a metà degli anni 60 a avere 10.000 iscritti, hanno discusso che erano troppi, perché l'aristocrazia, diciamo, guerriera non poteva avere così troppa gente. Quindi non ci spaventiamo il fatto che sono pochi. Sta cosa che viene spesso detto, sono pochi, non è che quando diventeranno tanti saranno un tema. Quelli sono un tema anche adesso, cioè perché non hanno un'idea così di sfondare nelle masse. Loro interessa molto che i loro discorsi circolino, questa è la verità, e possiamo dire che circolano, Senza limiti. Quindi il Covid ha messo in crisi le organizzazioni che avevano dei progetti sociali, inevitabilmente. Dall'altra parte non ha preso completamente quello spazio, c'è però un altro discorso, secondo me, perché noi dobbiamo sempre pensare all'immaginario. Secondo me quello che ha avvantaggiato la destra con il Covid è che il Covid ha dato la dimostrazione di come, che è una cosa su cui la destra ha sempre molto insistito, cioè di come le lungaggini, cioè come la vita democratica, quindi i voti, i parlamenti, siano un intralcio alle decisioni. Io la chiamo, hanno scoperto la democrazia dei DPCM, cioè il capo del governo che ti dice, quindi hanno costruito il premierato nei cambiamenti costituzionali, in senso di premier forte in tutta Europa, questa è la verità. Questa è la verità. Perché vincono i partiti di destra dopo il Covid? Vincono perché la gente si, come dire, è abituata a questo, perché noi possiamo avere proposte di cambiamenti costituzionali, perché l'abbiamo vissuta questa cosa qui. Noi, quando la gente per 2 anni vede su Facebook e viene annunciato per noi un DPCM con delle regole, vede una persona sola e quelle regole sono obbligatorie, ok? Nonostante non le voglia, diciamo, perché le ritiene complottiste, però non si può dire che nella testa delle persone poi l'idea autoritaria non ci sia, perché l'ha sperimentata sta roba qui, l'ha sperimentata, cioè l'ha provata sulla sua pelle. Quindi vive questa duplicità, e queste duplicità, questi paradossi, i fascisti ci sguazzano e non sono un problema per loro. Ripeto, le coerenze è un problema molto più a sinistra, le coerenze. Loro hanno sempre una molteplicità che si compatta nell'identitario, no? Dalla parte della patria e della nazione, che sono due cose diverse. Ma da questo punto di vista il Covid ha molto rimescolato le carte, non hanno incassato tanti militanti, a mio modo di vedere, non sono nate nuove organizzazioni rampanti, chi aveva progetti sociali ha dimostrato che questa, diciamo, sta macchina da guerra non era, dall'altra parte però si avvantaggiano di un clima, diciamo, che ha sperimentato un autoritarismo buono, diciamo. Però la gente l'ha sperimentato, cioè, io vedo anche nel mio piccolo, nessuno in Italia conosceva tutti i poteri dei presidenti, dei governatori delle regioni. Sì, stanno sulla Costituzione, stanno nelle nuove leggi, ma nessuno ha sperimentato mai. Che cosa voleva dire? Quanto poteva fare un presidente, un governatore di una regione? Nessuno ha sperimentato poi questa eccezionalità di leggi che accentrava tutto su una persona che decideva, questo era l'immaginario, Questo era l'immaginario, quei parlamenti chiusi. Per cui questa cosa qui ha avvantaggiato la destra, sicuramente ha avvantaggiato la destra, culturalmente. Infatti i progetti di riforme costituzionali come il nostro ci sono ovunque adesso. Però è vero che, per esempio, tu hai detto il Covid non ha riempito le sedi dei fascisti, però ha riempito invece le idee che loro portano, che loro dicono, che proliferano sui social soprattutto. Cioè, nel senso, non sono andati 10.000 persone ad iscriversi a Casa Pound, però 10.000 persone parlano di quello che dice Casa Pound e accettano e dicono, oh, hanno ragione, perché questo, perché c'è un complotto, perché altrimenti non si spiega perché queste idee che sono fasciste non vengono presentate come idee fasciste. Sì, però io ti direi così. Allora, Casa Pound vorrebbe che la gente dicesse ha ragione Casa Pound, ma questo non avviene. Cioè, c'è il complotto contro il Big Farm, ok? Non è il complotto contro il Big Farm che dice Casa Pound. Cioè, Casa Pound la butta lì, ma perché? Perché se ne avvantaggia. Casa Pound ha chiuso un quarto delle sue sezioni durante il Covid, un quarto, non riusciva a pagarle. Quelli poi sono un partito che si è visto una dimensione a latere imprenditoriale, per cui se chiudi dei negozi dei pub, le sedi sono pub, sono le librerie, ha chiuso un quarto delle sedi, è stata una dimezzata. Anche Milano, ristorazione. A Milano ha chiuso tutte le sedi, cioè, quindi paradossale, ma pure l'Altazione le sta chiudendo, quindi quella roba lì, siccome ormai sono diventati piccoli commercianti, li ha stressati in maniera, cioè, combattevano per i ristori, ma per loro, per le loro aziendine o per le loro vite private che hanno, diciamo, questa compagine, perché poi non sono schiacciabili spessissimo, ma sono vicine, cioè, però, diciamo, come dire, uno c'ha il ristorante e assume i camerati, cioè, poi quanto questa cosa incida, insomma, bisogna vedere, però il ristorante li chiude. Okay. Quindi da questo punto di vista c'è anche una questione di questo tipo. Loro però sì, loro hanno uno spazio molto grande, cioè comunque sono potuti andare in piazza ogni sabato per 20-30 volte di seguito, non gli succede mai la destra una roba del genere, mai. Quando hanno fatto da soli però le mascherine tricolori, non ce l'hanno fatta, cioè si sono buttati in queste piazze. Però guardate che le loro idee circolino, li avvantaggia tantissimo nel fatto che loro, pur rimanendo nel loro piccolo, possono andare in piazza. Infatti, che cosa fanno? Gareggiano fortemente fra di loro, tantissimo, per far vedere alla Meloni, guarda cosa abbiamo fatto, giocando anche sul mediatico, questo per quanto riguarda Casa Pound, ma diciamo, in Europa però una cosa come l'assalto alla CGIL, una manifestazione cosiddetta contro il Covid, in cui lo fa un gruppo estremista, non c'è stata nessuna parte, diciamo, e quella piazza lì è stata una piazza solo romana, tra virgolette, cioè solo romana, è successo solo a Roma. Quindi io provo sempre a dare delle proporzioni, perché noi siamo pieni di giornali, di giornalisti che ti parlano della marcia su Roma, che sono pronti con i fucili e le camicie nere. Non è così. Però è tutto parte della stessa partita, con Salvini e la Meloni, cioè da questo punto di vista. Quindi è evidente che hanno incassato altri, però è evidente che stare nella partita è importante, e per quello comunque cose come i Dora, il Veneto Fronte Skinhead sono condannati a estinguersi. Cioè, possono funzionare a Treviso, possono funzionare a Varese, con tutto rispetto per Varese o per Treviso, o Verona, ecco, Verona e Varese, ma quelle sono città particolari per l'estremismo di destra, là vanno bene tutti, là non sei egemone, là vanno bene tutti, cioè sono delle miniere d'oro da questo punto di vista, costruite anche in base a un'aggregazione legata allo stadio. Quindi, sai, che ci sono i gruppi forti a Verona, Varese o qualcosa a Roma, cioè scoprire l'acqua calda, che questo poi riguardi tutta l'Italia è un altro discorso. Quindi tu dici, per esempio, che anche dalle ultime cronache di questi fantomatici gruppi terroristici è soltanto una bolla, niente più. Sì, cioè, sì, guardate, i gruppi, sì, ma questo non sono organizzati, non sono militarizzati. Parliamo di gente che sparla su Telegram, cioè non, questa roba qui è proprio fumo negli occhi. Noi abbiamo le più importanti organizzazioni giovanili di destra d'Europa in Italia. Rete dei Patrioti, Casa Pound, Forza No, questi non li toccano mai. Non li toccano mai. Trovare i 10 che su Telegram che si mettono il logo di Odino dell'SS e dicono come gli sparerei alla Meloni, oppure magari vanno pure a sparare nei campi. Però capite che è come la gente quando sclera nei gruppi il fantacalcio su WhatsApp, scusate la banalizzazione, non sono quelli fascisti italiani. I fascisti italiani non li toccano, li assolvono per i saluti romani, gli fanno fare le manifestazioni, i questori non li bloccano più, la polizia ha un occhio di riguardo, questi sono i fascisti. Cioè non so ste robe qui, tu li puoi pure trovare le 10 persone che vanno. L'unico discorso che si può fare su queste cose è se vanno a fare i contractor in contesti di guerra. Questa è l'unica cosa che secondo me ha senso nel monitorare questi gruppi. Però sti fantomatici nazisti che hanno sti arsenali che poi non si trovano o comunque che vorrebbero sparare in testa alla Meloni, francamente non sono i fascisti in Italia. Se la magistratura si vuole occupare dei fascisti... ce ne ha tanti, voglio dire. E non gli dà mai, ecco l'altra cosa, non gli dà mai associazione. Che questo è il punto. Questi si beccano associazione, reati associativi, che sono pesantissimi. Nessuno ha mai messo in fila tutte le violenze di Forza Nuova, gli ha fatto un processo per associazione criminale. Mai. O Casa Pound. Cioè, il gruppo se la cava alla grande. Ma invece i 10 che sclerano su Telegram sono facilissimi. Poi, voglio dire, scusatemi, gente che parla di armi. In una chat con il logo dell'SS su Telegram, ma di che stiamo parlando? Saranno questi? Noi abbiamo le più grandi organizzazioni giovanili di estremismo di destra in Europa, cioè ci vengono a studiare da altri paesi, sia le università che le polizie, forse, e li assolvono sempre, anche adesso, li assolvono poi con delle sentenze anche pesanti sui saluti romani, in una manifestazione a Milano, il fatto non sussiste. Quando tu hai una sentenza così, poi in tutta Italia lo fai, serenamente. Ma infatti quanto peso ha adesso Casa Pound in Italia? Soprattutto da quando è al governo, c'è il governo Meloni. E quanto peso ha per il governo Meloni? Allora, il peso per il governo... Allora, loro hanno la carta buona che era con Salvini, dal 2014 al 2015 l'hanno pescata e l'hanno giocata male. Hanno provato la carta da soli per andare in Parlamento e non ce l'hanno fatta. Va detto che la Meloni, all'interno dell'estremismo di destra, non sta scontentando nessuno, ma del suo estremismo di destra. Cioè la Meloni gioca in famiglia, Gioca in famiglia. Poi che qualche personaggio, cioè il mondo di Fratelli d'Italia ha sufficienti estremisti di destra per riempire tutto. Casa Pound è in grossa difficoltà, perché essendo un gruppo... Casa Pound ha avuto una botta pazzesca quando l'ha buttata fuori da Facebook, perché se sei un... Instagram, se sei un gruppo così, che vive di squadrismo mediatico e di marketing giovanile, se ti buttano fuori i social network, è stata una mazzata incredibile. Il Covid sul piano loro economico, tenete presente che la Meloni poi, cioè come dire, la destra è conflittuale al suo interno. Tu sei andata con Salvini, non sei venuta con me. Perché hai detto quello sta al 30% e tu stai all'8%, me ne frega niente. Cioè, se lo ricordano. Poi la Meloni ha attuato delle cose anti Casa Pound, nel senso lei si è aperta a 4 centri sociali di destra per i suoi estremisti pagati al partito, alcuni li ha messi dentro, alcuni li mette in varie posizioni, alcuni saranno deputati. Il punto qual è con Casa Pound? sarà il post Casa Pound, cioè Casa Pound ha creato una nuova generazione di giovani di destra, quindi tu avrai che nel futuro i sindaci, i ministri, i deputati avranno fatto il blocco studentesco, così come potevano aver fatto il fronte alla gioventù quelli prima, di 20 anni prima, 30 anni prima, quindi sono tutti in difficoltà, sono tutti in difficoltà. Forza Nuova non ne parliamo, la scissione della Rete dei Patrioti l'ha massacrata. La Rete dei Patrioti aggrega in piccolissimi centri, ieri Masugli di Forza Nuova, Casa Pound si sta ancora organizzando, ma è bella bastonata da Covid, social e dal fatto che la Meloni non ci ha mai voluto parlare. Hanno avuto anche Casa Pound, che era un ambiente granitico, era proprio un ambiente spartano legionario, l'uscita di uno dei leader, quindi Casa Pound si deve riciclare da qualche parte. Hanno provato a interagire, per esempio c'è questa lista di paragone che è interessante, che viene ancora sondaggiata, perché tiene un po' di voto Novax e poi parla con i fascisti. Loro in realtà si sta anche aspettando poi che ne sarà del, loro discutono molto, ma anche che ne sarà del post Movimento 5 Stelle. Cioè ci sarà una parte, come dire, di destra che ne esce? Loro però, come Casa Pound, non vanno da nessuna parte più. Possono fare il gruppetto milizia, possono ricominciare nel blocco. Tanto è vero che loro hanno chiuso, diciamo, di fare il partito, l'hanno chiuso, sono tornati a essere movimento. Poi potranno prendere, sono anche abbastanza spregiudicati, hanno perso militanti, hanno perso dirigenti, sono numeri, sono un terzo, un quarto, cioè sono contenti se sono 200 persone, venivano a Milano in 1500 con Salvini, cioè stiamo parlando di questa questione qui, un quarto delle sedi chiuse, le attività commerciali che mantenevano la vita privata dei loro dirigenti devastate, cioè quindi non c'è quelli, ecco, il punto che potremmo dirci è che nel momento in cui sono così sono più cattivi, sono più violenti quando sono con le spalle al muro, cioè meno ambizione politica, ma questo non vuol dire meno militanza muscolare, perché poi devi ricompattare il tuo ambiente e per non perdere pezzi, se sei lo squadrista del terzo millennio, devi fare lo squadrista. Ma quanto, tu ad esempio nel libro ho letto una definizione che trovo fantastica, ovvero quella di fascismo mainstream. Sì, beh, questo ma è... Di spiegarcela. Questo è proprio quello che dicevamo, cioè quando i contenuti fascisti hanno pieno accesso nel mainstream, quindi legittimità, ma dall'altra parte creano il mainstream. Cioè è sempre vicendevole la cosa. Cioè chi tu porti fake news e stai fra le fake news, ma tu generi fake news. Ma sei mainstream perché hai capito la comunicazione. Io scherzando dico sempre le presentazioni che Casa Pound, dico sempre Casa Pound, ma perché in Europa sono un punto di riferimento. Potremmo parlare di Dritte Weg in Germania adesso, che fa le palestre popolari nei parchi di Berlino. Chiama ad andare a fare box nei parchi di Berlino. Si presenta in 30-40 e fa sta roba qui. Cioè, cosa mai successa per i neonazisti tedeschi che addirittura lanciassero qualcosa di sociale che non fosse il concerto in cui ti trovi in campagna col gruppo Nazi Oi con l'invito da scannerizzare all'autostrada segreto, o che non ci fosse il Verfassungsschutz, che è il servizio segreto interno che trova nel sottoscala il bar neonazista e arresta quel nucleo di Freikameradenschaften che c'è lì. Cioè l'idea è, così come il cancelliere di destra a Madrid, a Lione, che è stato chiuso, diciamo, dagli Antifa, quello di Lione, diciamo, o dei partiti milizia che ci sono un po' in Scandinavia, questa cosa qui, diciamo, questa idea di essere mainstream è anche l'idea di farmi vedere, cioè tu mi devi poter trovare a me, devo avere un indirizzo, non devo essere, e non devo avere una sede ammuffita con i manifesti dentro, ma devo avere un centro sociale, cioè un'idea di socialità fascista. E infatti l'ossessione è il gruppo musicale, è la tipologia, è la grafica. Io dicevo, sono i primi fascisti che usano Photoshop, quelli di Casa Pound, cioè è stato così, cioè usavano tutti i mezzi di comunicazione. Per quello ti dico, la mazzata quando ti butto fuori da Instagram, da Facebook, è una mazzata incredibile, anche perché poi loro hanno un target preciso, che è quello dei giovani. Altra cosa, cioè si è capito che il target sono i giovani, non i nostalgici. Che i nostalgici vanno ai partiti, ma sono i giovani. E questo vuol dire che noi avremo molti giovani di destra che potrebbero finire anche in partiti conservatori, che hanno passato degli anni in gruppi neonazisti o neofascisti. Questo è un grossissimo successo, perché crea una classe dirigente. Dopodiché, questo è un rapporto per cui, diciamo, l'ambiente delle fake news ti avvantaggia, ma tu sei forte se tu crei le tue, che non è semplicissimo, imporre le tue. Ma poi non se lo ricorda più nessuno che sono le tue, ma tu hai già ottenuto il successo che hai maggiore legittimità. È chiaro che se ti buttano fuori dai più importanti social network, poi fai fatica a fare la cosa. Allora avevano anche un giornale in edicola, che era il Primato Nazionale, poi non se lo sono più potuti permettere, naufragato poco dopo il Covid. Hanno speso tantissimo per aprire, erano arrivati a 140 sedi per andare in Parlamento, ma non ce l'hanno fatta. Quindi è chiaro che adesso, come dire, se tu hai portato che sei l'organizzazione dei fascisti del terzo millennio, che c'hai 140 sedi, che le periferie sono tue con i pacchi di pasta, che sei il nuovo fronte della gioventù, e che, diciamo, sei una macchina da guerra, quando poi questo si dimostra che non è così, ti hanno mollato tutti, cioè, nel senso, nessuno più ti guarda, però tu continui ad avere un ambito mainstream, questo va detto. Cioè, tutta la gente oggi, se tu dici fascista in Italia, pensano a Casapound. E loro continuano ad avere una militanza che adesso, io non so, vedevo le istruzioni che sono state date per gli attacchinaggi ai giovani del blocco studentesco delle scuole, che è stato completamente raso al suolo, che adesso è ricominciato. Le istruzioni sono: portati vestiti di nero, portati il casco perché se arrivano gli antifa devi poter rispondere, noi non siamo gente che scappa, stai attento. Cioè, è tutto ricostruire quell'immaginario squadrista e ribelle che li porta così a essere, a presentarsi così, ma non lo possono fare più nei social, questa è già una botta pazzesca. Gli tocca andare con i volantini nuovi davanti alle scuole. Però è mainstream anche, diciamo, che se loro organizzano un qualcosa e c'è un picchetto antifa a contrastare questa cosa, i cattivi sono gli antifa che impediscono la democrazia. È un po' un paradosso. Ma questo è molto alimentato dalla Meloni e Salvini. Cioè, Salvini ti dice Zaccherossa. Sì, oh, Salvini che ti dice Zaccherossa, però anche il Rai 1 che apre con violenti scontri causa per colpa di, cioè non perché c'è un corteo fascista. Questo dovrebbe essere l'allarme, il corteo fascista, non il picchetto antifascista. No, io sono d'accordo con te, però sono 30 anni che non succede questa roba qui. E loro ti dicono, noi siamo violenti per difenderci dagli antifa. Cioè, noi non ci facciamo difendere dalla polizia. E questa cosa di fare... Poi non è vero, abbiamo visto a Bologna che era tutto il contrario. Sì, ma da questo punto di vista, poi, sai, quando devi... la propaganda è propaganda da questo punto di vista. Va detto che, francamente, dal punto di vista informativo non hai... Cioè, i partiti ormai hanno creato un unico sistema informativo fra pubblico e privato delle televisioni. Questa cosa dura da molto, quindi è chiaro che funziona così. In più, se tu hai i deputati e i ministri che dicono le zecche rosse o la Meloni che dà questo, è chiaro che questo. Per esempio, loro fanno una grossissima. Ci sono poi dei successi che loro ottengono. Cioè, l'AMPI è ormai stata, come dire, nell'immaginario pubblico, nelle scuole, anche in qualche maniera c'è un punto di domanda. Ma chiamo l'AMPI perché ormai l'hanno fatto diventare un'organizzazione di parte, come si suol dire. Cioè, si è perso completamente questo dell'identità, l'identità della resistenza, e questo pesa. Ma questo è stato un lavoro però per la destra, Cioè, questo non è questo è effetto di una strategia che è trentennale, e del grande impatto di Berlusconi. In altri paesi, non lo so, la Le Pen comunque è bloccata da un destra liberale, da una destra liberale che è antifascista, non possiamo dire di no. Cioè, nel voto liberale, anche non soltanto del fronte popolare, ma anche del liberalismo tecnocratico conservatore neoliberista di Macron, c'è una pregiudiziale antifascista. Poi, quanto duri è tutto da vedere. Nella CDU di Angela Merkel e anche nella CDU di adesso c'è un muro, c'è un muro. Cioè, esistono dei conservatori che hanno ancora delle opposizioni, diciamo, di natura culturale, estremismo di destra. Per cui tu hai dei paesi in cui sono fortissimi, ad AD für Deutschland, il Front National è il primo partito di Francia da metà degli anni 10 del 2000, ma non vai da nessuna parte finché hai un blocco che ti blocca, Sarkozy o Chirac o Macron, cioè, quindi diciamo, puoi essere pure al 40%, ma se non arrivi al 51 non se ne parla e non ci arriverai al 51. Quindi tutti questi stanno aspettando, questi partiti grossi, che frani un pezzo del conservatorismo, e quelli che più aspettano sono Alternative für Deutschland e Front National. Sono quelli che aspettano. Da noi questa cosa qui, per risponderti, non esiste da 30 anni. Cioè, da noi non c'è un muro culturale antifascista, ma abbiamo le tre destre, perché noi abbiamo tre destre che governano insieme. Negli altri paesi non succede così. Cioè, Forza Italia in Francia, c'è Sarkozy, non fa gli accordi con la Le Pen. Da noi invece tu hai tutto insieme, felicemente da 30 anni, che è tantino. Cioè, questi governano insieme, dal condominio fino al governo nazionale, cioè tutti i livelli insieme, ormai si è creata una collaborazione. Poi lo so che i giornali Repubblica stanno molto più attenti a se si guardano, se si salutano, stanno insieme da 30 anni, è una fase storica sta roba qui, cioè è una fase storica, ed è stato un lavoro sulla storia. Cioè loro ormai, parliamoci chiaro, la destra è spaventata da tre cose, lì è proprio spaventata, infatti convoglia tutte le forze lì, non è più spaventata dalla retorica antifascista o dall'identità della resistenza italiana, non è più spaventata, addirittura può proporre di cambiare la Costituzione senza problemi, e ha già fatto già passare un pezzo con l'autonomia differenziata bloccata dai giudici per adesso, probabilmente anche da un referendum che è andato molto bene nella raccolta firme, ma non è detto. Loro sono spaventati da tre questioni: le questioni della giustizia climatica, loro sono tutti negazionisti e sono tutti per il nucleare, le questioni relativamente di genere, questa cosa li fa impazzire le questioni legate alle questioni di genere, dove ci vedono il vero grande complotto, il complotto gender da cui bisogna difendere dai bambini fino agli anziani, questo li fa impazzire, e poi le questioni legate alle migrazioni e quindi all'antirazzismo, cioè questi a chi fanno la guerra? Fanno la guerra, cos'è che scrivono sui giornali di destra, non solo la verità, i cretini di Per Greta, scrivono il complotto gender nelle scuole che vuole far capire ai nostri bambini fin da piccoli che non ci sono, che le famiglie etero non sono le uniche famiglie, quindi il binario, diciamo, di genere non è, non ci sono più mamma e papà, ma ci sono due mamme e due papà, questo li fa impazzire. Cioè, e poi la questione negativa legata alle immigrazioni, cioè loro fanno le leggi per affondare l'ONG, barco, cioè dobbiamo essere chiari, cioè ci sono le zecche rosse che non li preoccupano, al massimo li scatenano la polizia, che ha delle simpatie anche alle volte. Ma quello che li fa impazzire sono le questioni ambientali, le questioni di genere e le questioni legate all'antirazzismo. Lì loro convogliano tutte le forze. E poi adesso si vede col DDL sicurezza, no? Quest'idea anche di silenziare, diciamo, un mondo del lavoro conflittuale, soprattutto quello dei sindacati di base, no? Quindi i picchetti della logistica. Cioè, tu vedi gli articoli, se tu vedi gli articoli del codice. Del nuovo codice, diciamo, contro le pene sul dissenso, il DDL 1660, che attualmente è al Senato, per loro ci sono ultima generazione, ci sono le questioni dentro le carceri, ci sono i picchetti, non ci sono questioni legate a quello che può essere un mondo antifa. Sì, si aumenta la resistenza pubblico ufficiale, ok, però quello che li spaventa sono quelle tre cose, e ci mettono tutta la violenza e tutta l'energia. Dall'altra parte sono le battute da bar sulle zecche rosse, o sull'Ampi, che insomma nelle scuole non funziona tanto bene, nelle scuole bisogna mandare educazione civica patriottica, ma questo ci pensa Valditara. Sì. E poi questa cosa che no. I militari sono la parte sana della nazione e che si torna in guerra, questo non è poco, cioè loro sono i militari, sono la parte buona della nazione, quindi i bambini alle medie si portano in gita alla base NATO, cioè la pace, loro sono riusciti a dire che la pace e la solidarietà sono valori di parte, cioè sono riusciti col mainstream in questi anni a stabilire che la solidarietà non è un principio umanistico che riguarda tutti, no, è un qualcosa che riguarda, la solidarietà riguarda la sinistra che vuole i migranti, e dall'altra parte che la pace non è più l'obiettivo di tutti sempre e comunque, ma c'è la guerra, si vendono le armi, ci dobbiamo preparare, dobbiamo aumentare il budget, dobbiamo avere le frecce tricolori come emblema della nazione, cioè sono queste le battaglie culturali che loro fanno contro la famiglia di due mamme, per il nucleare, questa è la loro guerra, è sta roba qui. tutta la cultura antifascista l'hanno, per loro non è più un problema, perché sentono di averla sconfitta. E quindi è chiaro che gli antifa sono solo coloro che fanno incidenti con la polizia. Ma è possibile che si è arrivati ad esempio al DDL 1660 perché chi c'era prima ne ha gettato le basi? Vabbè, ah, guarda, le leggi speciali non le toglie mai nessuno, fanno comodo a tutti. Cioè, le leggi speciali sull'ordine pubblico, tutti protestano quando sono all'opposizione, ma tutti le lasciano. Ma dalla legge reale in poi, cioè, funziona così, L'ordine pubblico, cioè tenere fermi il conflitto sociale conviene a qualsiasi governante, da questo punto di vista. Cioè, io lo vedo anche adesso in Senato, voi non avete le barricate di tutto il centrosinistra, avete alcuni partiti, avete AVS che protesta e fa 1000 emendamenti, ma non è una delle campagne del mondo di sinistra partitico come il PD, per capirci chiaro. Cioè, quella cosa lì sull'ordine pubblico, cioè il picchetto dei facchini conflittuale, diciamo, rompe le scatole a tutti da questo punto di vista. Per cui tutti protestano contro le leggi Repubblica, leggi Reale, leggi Cossiga, successo di tutto negli anni, ma tutti le lasciano. Io non ho mai visto storicamente una legge che venga rimossa. Cioè, noi, infatti, se le denunce hanno ancora il TULPS, la legge Reale, la legge Cossiga, cioè, hanno ancora tutto, perché c'è ancora tutto dentro. C'è ancora il codice Rocco, per cui, nel senso, non è che hai agevolato, lo lasceranno serenamente, oppure toglieranno la norma anti-Gandhi, come la chiamano loro. Cioè, anche per questo la destra può dire: facciamo il reato anti-Gandhi. Ma voi avete, cioè, nel senso, è un successo culturale mainstream fortissimo dire che Gandhi sia un estremista, che ci vuole il reato contro Gandhi. È chiaro che hanno già sfondato su queste cose. Cioè, la norma anti-Gandhi fa ridere, cioè addirittura Gandhi è come, non so, paraeso la Croce Rossa, cioè. E invece ci vuole il reato anti-Gandhi. Cioè, quindi siamo arrivati a un successo, cioè a una forza culturale della destra che è grossa, è inutile. Io sono dell'idea, da storico, che pure bisogna dirsi quando si perde, su alcune cose. Su quelle tre cose non si è perso, non si è perso. E lì veramente sudano freddo. Benissimo. Rimanendo sul Vai, Rap. mainstream, diciamo, non possiamo che parlare, almeno una domanda su Trump. E quando abbiamo avuto qui ospite Leonardo Bianchi, cioè Leonardo ha detto che comunque Trump, che non è proprio ben visto da tutta la destra neofascista, neonazista, però può essere un aggregatore di queste forze. Secondo, cioè anche tu più o meno hai detto la stessa cosa. Può essere vera questa cosa? E che ruolo avrà Elon Musk in questa propaganda? Allora, secondo me sulla questione Trump ci sono un po' più cose da dire. Allora, Leonardo Bianchi è un attento conoscitore, diciamo, soprattutto del mondo trampiano. Gli Stati Uniti sono una cosa complicata, eh. Ne parlano tutti, però è una roba abbastanza complicata da questo punto di vista. E quindi si rischia di andare molto a sensazione. Allora, qual è l'influenza di Trump? Allora, tutti i gruppi di destra, quando va qualcuno di destra al potere, dicono: non ci piace fino in fondo, ma non ci dispiace. E il commento c'è, cioè, se loro non hanno Hitler, non va bene. Cioè, non è perfetto. Come era con Salvini, eh? Come era con la Meloni, come con la Le Pen. Cioè, finché, sì, però preferiamo che ci sia un nazionalista, preferiamo che ci sia qualcuno che difende il proprio paese, ma non ci fa impazzire. Questo è il tipico, ma probabilmente sono talmente litigiosi che si sarebbero litigati fra Mussolini e Hitler, e lo facevano al tempo, quello per Codreanu, quello per, cioè, quindi non c'è mai l'uomo perfetto per loro, che dovrebbero essere loro, fra parentesi. Quindi, diciamo, questo è il commento standard, che hanno sempre fatto su tutti, sempre fatto su tutti, quindi questo è proprio un disco rotto. Dall'altra parte, Trump, però, che cosa dimostra a livello internazionale? Perché diciamolo subito: Trump ha vinto per questioni americane, totalmente americane. Gli americani non sono andati a votare per la Palestina o l'Ucraina, non ne frega niente. Il tema è la geopolitica americana e l'industria americana, sono i dazi doganali, sono le tasse, sono l'organizzazione sociale, sono la propaganda trumpiana in cui una certa America vera si vendica sull'America invece woke, cioè sono appunto contro il complotto. Già, questa roba qui ha vinto, non ha vinto l'Ucraina Putin, non frega niente a nessuno, niente a nessuno lì. Cioè chi conosce bene, diciamo, la politica americana la studia, cioè, altrimenti però, parliamoci chiaro, il giornalista che se ne sta a New York, che va 10 giorni a seguire la politica di Trump, dove vai? Cioè, però devi fare l'articolo, devi fare il libro, perché ormai questa è la regola fame. Sono 10 libri su Trump, ci saranno andati in America 3, forse 20 giorni, forse 20 giorni. Cioè, quelli bravi non l'hanno fatto. Ecco, Leonardo Bianchi è uno bravo anche perché lui ha capito questa cosa della particolarità del mainstream internet americano, l'ha capita. Cioè in Italia c'è solo lui su questo, se non per fargli i complimenti, ci conosciamo anche poco, ma nel senso è lui ha capito quella roba lì. Cioè lui ti fa anche una classificazione delle fabbriche delle fake news all'americana, dei meme, cioè è molto interessante l'altright, cioè i suoi libri sono fatti molto bene, e questo è un pezzo, e questo è un pezzo. Anche perché dire io sono negazionista climatico vuol dire agli operai delle miniere e dell'industria dell'auto, tranquilli, inquineremo, questa è la ricaduta, non stiamo parlando di piatto, questo vuol dire parlare degli strati operai, questo vuol dire carbone e fossile vanno avanti tranquilli. Quindi questo c'è. Trump però cosa dimostra alle destre mondiali? Questa volta sì, perché la prima volta no, la seconda, questa volta sì, dimostra che cosa? Che i contenuti radicali vincono. I contenuti radicali vincono di destra. Questo dimostrano. Trump, nonostante tutto, è tornato. C'è Trump, hanno votato Trump, cioè non c'è più scandalo adesso. Cioè loro che fanno la grande democrazia hanno votato Trump. Questa è la dimostrazione per gli esseri europei, che è la roba, che i loro contenuti, per quanto siano estremisti, per quanto loro vogliano sempre andare un po' in avanti, funzionano. Questa è la verità. E funzionerà molto questa cosa che loro hanno, insomma, la Meloni aveva già ben capito quando ha detto io sono un underdog. Trump dice io sono un povero coi soldi. Sfido Kamala Harris a dirmi quanto costano le uova al supermercato. Le uova per loro sono come il latte e il pane, c'è la colazione, no? Infatti i commentatori americani dicevano ha vinto sulle uova, ha vinto sulle uova. Io con una battuta pensavo che il mio inglese fosse peggiorato perché sentivo che diceva uova. Poi giustamente un collega che fa storia americana, perché io sono sempre dell'idea che si vada dagli specialisti per capire, non si legge chi ci va 10 giorni e sta a New York e non è mai andato in Nevada o in Montana o nella cintura della ruggine, dice ma ha vinto sulle uova perché ha fatto quello che sa quanto costano le uova. Figuratevi se Trump va al supermercato. Figuratevi se Trump va al supermercato e compra lui le uova, un miliardario. Ma lui è un povero con i soldi, cioè è geniale questa cosa qui, è geniale. Cioè riuscire a convincere milioni di persone di questa cosa è geniale. C'è un meccanismo comunicativo grandioso, cioè è riuscito a spostare... Allora, noi questa cosa non ci sembra tanto, perché noi abbiamo avuto Berlusconi che ha involgarito il nostro dibattito pubblico. Cioè Berlusconi l'avrebbero cacciato da qualsiasi tribuna politica nella Prima Repubblica per battutacce. Trump ha fatto così, ci ha distrutto completamente il mainstream dicendo le cose violentissime, ma là non era così, eh? Là non era così. Perché? Perché ha costruito questa cosa che è importante per loro di tutte le destre, contro la cultura radical chic. Cioè, anche semplicemente sì, le due mamme vogliono il figlio, se lo andranno a comprare si sceglieranno razzialmente nel catalogo la donna bianca per avere il figlio, cioè questa è la cosa che c'è contro la cultura del radical chicchismo. Questa è una cosa fortissima, cioè il popolo vero, il vero americano che vuole tornare a essere forte. Poi gli Stati Uniti sono una potenza declassata dalla storia, quindi possono anche fare la guerra doganale alla Cina, ma hanno già perso, e Trump lo sa benissimo. Però l'idea del torniamo noi, lui cosa ha detto? Comincia di nuovo l'età dell'oro, ma quelli l'avevano già detto che cominciava il secolo americano negli anni 90, ma poi le hanno prese. In più, devo dire la verità, a livello geopolitico, loro hanno una Costituzione che è degli anni 80 dell'Ottocento, del Settecento. Questa cosa che tu vinci a novembre e ti insedi a gennaio, stai dando un mese e mezzo a tutto il mondo a livello geopolitico per prepararsi a te. Quindi anche Elon Musk Cioè, se tu giochi in borsa, è questione di minuti, è questione di giorni, non che hai 2 mesi e così tutti si preparano a isolarti. Quindi hai la Gran Bretagna che dice reset, torniamo verso l'Europa, la Cina che si prepara, il Brasile così, l'Europa così. Quindi, diciamo, tutto questo secolo d'oro americano, l'età dell'oro, è palese che non potrebbe neanche più avvenire. Però Trump, per le destre mondiali, conferma che determinate posizioni sono assolutamente sensate, giuste, e stravincono il secondo giro, nonostante i colpi di Stato, nonostante le battutacce sessiste, nonostante il machismo, nonostante il negazionismo climatico, che il muro sul Messico sia gli spari, e questo gli spara davvero, che poi anche questo è il punto, che Trump dà l'immagine che quello lo fa davvero. Cioè, questo è, lui passa per un politico radicale che si presenta col fucile, ma col fucile che spara. Non è più contenuti radicali poi si calmano al governo, che è sempre stato il grande errore. Questa cosa qui c'è fin da Giolitti con Berlusconi, Mussolini. Mandiamoli in Parlamento, si calmeranno. Ma non ne succede mai, e succede sempre lì. Trump è uno che c'ha la pistola e ti dice: io sparerò. E lo farà molto probabilmente, soprattutto nel secondo giro. Quindi rivotiamolo perché adesso spara. Rivotiamolo perché i newyorkesi radical chic che vanno a Oxford, che vanno a Boston a fare l'università, come i Clinton, come Kamala Harris, questi qui sono dei ricchi radical chic che si possono permettere nelle loro terrazze ricche di discutere dei poveri. Io sto con i poveri perché io sono un povero ricco. Quindi hai un miliardario che riesce a fare questo. È un capolavoro, si è guadagnato cataste di libri di politologia per sempre Trump, parliamoci chiaro, di storia anche, per cui questa è la vera incidenza. Quindi è l'onda lunga che tocca l'Europa, non è la vicenda americana. Cioè, a noi gli operai della cintura della ruggine o dell'ex General Motors non ci dicono niente. Elon Musk è, secondo me, interessante per una cosa, però, cioè lui è il primo esempio di diciamo, non tanto per Tesla, ma più per X. Cioè lui è come se fosse un ha portato per la prima volta nel mondo dei social, che non è trascurabile, anche se è molto sottovalutato spesso dagli altri media, ha portato un punto di vista politico forte. Invece i social, per, diciamo, quelli di Meta, cioè di Zuckerberg, avevano mantenuto, erano accusati di radical chicchismo, diciamo, perché ti toglievano alcuni contenuti, soprattutto legato alle questioni di genere. Lui ha dimostrato invece che c'è un social che ha un padrone politicizzato e che è in politica, che fa attività politica e probabilmente sarà premiato nella compagine di governo. E questa è la prima volta che succede. È come dire avere un magnate dei giornali che è a livello mondiale, che è, ha un partito, ha un presidente, e non è che è vicino o amico, ma è lui in prima persona. Questa è la prima volta nei social network una cosa del genere. E questo sì che è interessante, è importante, cioè la politicizzazione del padrone del social network, non più dei contenuti del social network che inevitabilmente si scontrano, è riuscito a fare questa cosa qui. Lo stesso Trump era stato buttato fuori da Twitter e si era fatto True, il suo social network, in cui parlava solo lui, ok? Quindi capite come Elon Musk ha cambiato completamente anche questo, però io credo che questa è una questione di megafono e di propagazione, e come, tornando a Leonardo Bianchi, insegna, anche di adeguamento della comunicazione a questi media, che non è la stessa cosa di fare un manifesto, fare un volantino, fare un post su X, fare un post su Instagram, fare un post su Facebook, fare una mail, fare un comizio, fare YouTube, non è la stessa cosa. La destra questa cosa l'ha capita benissimo, invece la sinistra tende a usare ancora le tecnologie come: ho fatto il volantino, l'ho spatto col suo JPEG su Facebook, ma non capisco che ci vuole una professionalità. Infatti tutti i gruppi e le agenzie di comunicazione lavorano per la destra, no, per la destra storicamente, cioè le bestie di Salvini, cioè lavorano per la destra, e sono scatenate sui contenuti. Trump dimostra questo, che se sei scatenato sui contenuti puoi vincere e anche stravincere. Ma lo dimostra, scusate, più ai paesi dove la destra deve vincere, cioè alla Germania, Tadif Deutschland non ha chance, però può spostare l'asse dei conservatori, o alla Le Pen. Dimostra molto questo in quei paesi lì, cioè che non è uno scandalo se questi vanno, vincono anche in America. Chiaro. My rough. Diciamo, ritornando all'Europa, e in particolare tra parallelismo tra noi e la Spagna, dove credo che ad oggi siano i due partiti di destra, diciamo, governativa più forti, Vox e Fratelli d'Italia. Perché questi, cioè, il loro intento è quello di attrarre politiche, attrarre elettorato non solo diciamo, dai nostalgici, ma anche dalle nuove generazioni. E questo andrà poi, anche tu l'hai detto prima, a formare una nuova classe dirigente di destra. Quanto è forte questo legame tra le due formazioni? Allora, diciamo che Vox ha una vocazione ad andare al governo, ma non è una forza di governo. La Meloni si è Sì, presentata. nel senso le No, ha due una forze che si vocazione presentano, co come anche Le Pen, possiamo dire in questo caso, ad andare al governo. Ecco, io però forse. distinguerei se sono al governo o se sono stati al governo o no. Le Ah, Pen e ok. Vox, mai. La Meloni, molto. Cioè, questa è una grossissima differenziazione. A essere onesti, nonostante ci sia stata io da Vox, io sono Giorgia, io sono cattolico, sono una madre, Vox è legato a Salvini. Vox è, poi, come dicevo prima, ci sono delle questioni nazionali fortissime. Vox sono tutti ex del Partito Popolare di Aznar, quindi non hanno un passato di destra, ma hanno un passato di centro. E propugnano un centrodestra. Quindi questo è leghista come ottica. Dall'altra parte, Vox, che cosa ha impostato come sua campagna vincente? Sì, ci sono le questioni legate ovviamente alla famiglia, al negazionismo climatico, ai migranti, queste ce l'hanno tutti. Però loro hanno impostato che sono la Spagna castigliana. Cioè, Vox, quando è che prende tanto? Prende tanto quando c'è l'autonomia la tentativa di autonomia della Catalogna. Cioè, noi siamo la Spagna, sono tutti castigliani. Ascal, che è il leader di Vox, lui, il padre, ha avuto un attentato dell'ETA. Cioè, questa cosa qui pesa tantissimo lì, per quanto riguarda la destra. E qui ci sta anche l'idea del franchismo, che loro fanno i simpatici su Franco, perché è la Spagna castigliana, è la Spagna unitaria, la Spagna che c'è questa cosa in Spagna, c'è dal 500 che è la compattezza castigliana, la Spagna è castigliana, si parla il castigliano come spagnolo, si parla il catalano, si parla il castigliano. Quindi i carri armati di Madrid a Barcellona sono stati il grande volano, poi ci metti l'immigrazione e altro, ma loro sono molto leghisti, infatti anche nel Parlamento europeo, loro con la Lega. Non vanno con Fratelli d'Italia, cioè il loro modello è quello. La Meloni ha giocato molto sulla questione. Beh, un'altra cosa che diciamo è riuscita la destra a livello europeo a fare è a politicizzare il Papa. In che senso? Questo Papa è di estrema sinistra, quindi non sono i cattolici, e quindi c'hai quella che dice sono cristiana, quello che giura sul Vangelo, Vox così, Ciga così, la Le Pen così, cioè sono riusciti a dire c'è una chiesa che non è il Papa. Anche qui perché il Papa è per i migranti, e quindi loro fondamentalmente spingono il voto cattolico a disobbedire al Papa. E questa è una cosa che gli è riuscita. Cioè, Salvini che giura sulla Costituzione e sul Vangelo, con il Papa che dice non votate questi, e stravince 2018, è un chiaro segnale che l'elettorato cattolico, diciamo, ha votato per lui. Oltretutto, i partiti cattolici in Europa sono diminuiti tantissimo. Motivo per cui c'è un voto dei cattolici che non è più identificato con un partito. Quindi là te la devi giocare. La vera forza, cioè, il vero leader della sinistra mondiale è il Papa per la destra. Cioè il Papa. Questo anche è un meccanismo comunicativo. La destra, la sinistra, come dire, perdona al Papa le uscite sul gender, dall'altra parte sui migranti lo esalta le encicliche sull'uguaglianza, ma loro sono riusciti a dire che il Papa è di sinistra, cioè che quindi sta con quelli. Ma c'è una Chiesa che invece, come dire, è compattata intorno alla patria. La Le Pen in realtà ha un problema di doversi allontanare dallo spettro del padre. questa cosa qui lì pesa, perché effettivamente tu hai avuto 40 anni per cui il Front Nazionale erano i cattivi della politica, quindi ha chiamato l'Assemblea Nazionale, tant'è vero che, il grande successo di questi giovani rampolli dell'ex Front Nazionale, l'Assemblea Nazionale, sono il futuro. La Le Pen voleva addirittura mettere la nipote, cioè Marion Le Pen, questa cosa non la potrà più fare, cioè lei, il cognome Le Pen è un problema, perché si porta dietro quel bagaglio lì, e in Francia sta roba ha ancora un peso, cioè il Front National stravince nelle province, stravince a livello nazionale da decenni, non è una roba nuova. Vox è una roba nuova, per esempio. Vox è un tipico partito emerso durante gli anni della crisi, come Ciga in Portogallo. Quindi, sapete, quelli si muovono sull'impoverimento, diciamo, dei ceti bassi tradizionali, la famiglia del buon lavoratore, del buon spagnolo, del buon portoghese, che se la prende soprattutto su immigrazione e complotto gender. Noi la Meloni è un'altra cosa. La Meloni viene comunque da un passato missing. Cioè, il Fratelli d'Italia è molto più legato alla MSI che alla Nazionale. Adesso, no? A gennaio c'è l'anniversario della svolta di Fiuggi, ma Dio Padre e Famiglia, l'Alleanza Nazionale non lo diceva, per capirci, era sempre quel allontanarsi, sì, c'è il consigliere regionale o provinciale che va a fare la cena per Mussolini, c'è la russa che c'ha il busto, ma noi ci abbiamo fini, il male, cioè, quindi la roba lì si tentava, e va detto, quello era un progetto di Almirante, fare una cosa del genere, cioè, non era una roba che fini. La Meloni prende un altro progetto di Almirante, che era quello precedente, che era quello della destra nazionale degli anni 80, l'MSI fa questo congresso nell'82, in cui aggiorna il proprio bagaglio politico sul nucleare, sulla droga, sull'immigrazione, è lì che loro si pongono già negli anni 80 alcuni temi fino della famiglia, fino dell'oggi. Ma perché? Perché già li poneva, l'82 è l'anno del massimo scontro fra Jean-Marie Le Pen e Mitterrand, cioè il vero momento in cui il Front National attacca frontalmente la sinistra. Voi sapete, in Francia ci può essere una, spessissimo, quasi sempre, c'è una coesistenza fra un presidente della Repubblica di un partito e invece il capo del governo che è di un altro partito, magari opposto. Con Mitterrand c'erano due socialisti, quindi era la sinistra che aveva preso la Francia, e lì è stato l'apogeo del Front National, l'82. E quindi l'MSI dell'82, che aveva fatto l'eurodestra, perché in quel momento sì, erano forti, ma era il Front Nazionale il nuovo partito di destra che era emerso da 10 anni, perché è del 72, ma era emerso da 10 anni, era emerso 10 anni dopo, lì era la corsa a farsi il selfie con Jean-Marie Le Pen, diciamo, il selfie del tempo. Quindi sapete, qua contano queste cose qui, cioè quando dicevo all'inizio il piano nazionale conta. Da noi l'MSI ormai è sdoganato, Almirante è una brava persona, cioè nel senso, questa è l'idea. I Le Pen no, la famiglia Le Pen no. Vox è nato molto dopo come delusi di Aznar, cioè dai popolari. Quindi... Beh, però scusami, passare da una percentuale di 1-2% alle doppie cifre, parlo di Le Pen, cioè non è proprio da sottovalutare, o no? Cioè, quindi questo cognome non è proprio ingombrante, non è più ingombrante in una maniera molto forte, altrimenti non avrebbero questi numeri, credo. Questi numeri ce l'hanno dal 2002. Sì, però è stato un continuo, cioè non è che... Lo so, però fin quando tu non hai... Allora, tu devi avere il 51%. Puoi avere pure il 48, ma devi trovare qualcuno che ti dà quel 3, se vuoi governare. Allora, sì, però tu convieni che tra il 2% e il 48 c'è una differenza abissale. No, ma certo, però il Front National va al ballottaggio delle... Allora lì, devo dire, De Gaulle l'ha progettata bene questa cosa qui. Cioè il Front National ha 3 strade. O si toglie il ballottaggio e si vince al primo turno, perché il Front National è sempre massacrato. Noi facciamo le percentuali sul primo turno, non facciamo le percentuali sugli eletti. Non becca un sindaco, perché c'è il secondo turno e c'è il cosiddetto asse repubblicano. Cioè nel momento in cui può essere eletto il governante, quel sindaco, altro, tutti votano per quell'altro. Quindi i socialisti votano di per Chirac, votarono tutti per Sarkozy. Cioè, quindi, diciamo, quelli lì o tolgono il doppio turno con la riforma costituzionale, e che è una riforma costituzionale grossa, perché vuol dire cambiare un pezzo della nazione, del sistema progettato da De Gaulle, con la Quinta Repubblica, o trovano qualcuno nel mondo liberale conservatore che fa l'alleanza con loro, o trovano quello, o pigliano il 51. Non hanno altre possibilità. E se tre robe sono lontane da venire. La cosa più probabile è che prima o poi tu trovi quel 5, 10, 7% del mondo dei liberali conservatori che fa il salto. Ma non è detto che poi il salto sia premiato dalle urne. Infatti, che cosa sta facendo il Front Nazionale? Il Front Nazionale è indeciso se tornare a governare, se tornare a votare, oppure far cadere i governi e vedere se qualche conservatore ci sta. Ma guardate che è uno sputtanamento incredibile in Francia per un conservatore fare questo. È uno sputtanamento incredibile. Cioè la domanda è: chi si oppone meglio al Front National, Mélenchon o Macron? E ha sempre vinto Macron. Cioè Macron ha sempre vinto con questa cosa qui. Dopo di me il diluvio. Che volete, Mélenchon o addirittura la Le Pen? Quindi io personalmente, il Front National ha queste tre strade davanti. Può prendere pure il 45, il 46, il 47. C'è il secondo turno, prima di tutto. E lì il punto è il Presidente della Repubblica. Il punto è il Presidente della Repubblica. E quindi devi passare il doppio turno. Quindi o sfondi completamente, e quindi vinci tu, non è mai successo dal 2002, e ci hanno provato tutte le volte, 2013, cioè, sempre c'è il ballottaggio e sempre perdi. Idem con i sindaci, sì, puoi vincere in Bretagna, puoi vincere a Calais, avevi vinto a Nizza una volta, però diciamo questa cosa non fu, per quello gli italiani sono i così ammirati. Gli italiani sono così ammirati, Salvini e la Meloni, perché con contenuti così vincono. Va detto che hanno vinto per decenni grazie a Berlusconi, questa è la verità, che vincono in coalizione. Cioè da soli, la Meloni, Salvini o Forza Italia non governerebbero e non vincerebbero da soli non vincerebbero. In coalizione sì, soltanto che noi abbiamo una particolarità, che le nostre destre, cioè le nostre tre tipologie di destra, quella neoliberista reganiana, quella postfascista e quella etnoregionalista xenofoba della Lega, negli altri paesi esistono sempre, ma si scontrano l'una con l'altra. Da noi c'è la coalizione, come dice Guido Calderone, le destre plurali. Questa è la storia della destra italiana, che c'è la coalizione. Invece, quindi tu non hai Meloni e Salvini contro Forza Italia, che sarebbe con Macron. E questo è il punto. Infatti nel Parlamento europeo, quella è per Lagarde, quella sì, quella no, quella forse. Cioè sugli assetti liberali, conservatori e neoliberisti, si dividono loro. La Meloni, come dire, sta tornando a un certo statalismo, tra virgolette, sta tornando a un certo statalismo, che è rompere un paradigma neoliberale. Quindi, diciamo, l'Italia è poco paragonabile ed è il sogno di tutti, perché non ci sono conservatori, i conservatori sono di destra, e quindi i conservatori non hanno problemi da 30 anni a stare con i fascisti, o stare con i postfascisti, o stare con i xenofobi, diciamo, egoisti della piccola media impresa del nord. E questo è il grande miracolo di Berlusconi, il grande miracolo di Berlusconi, che è la seconda repubblica, è sta roba qui. Cioè lui è riuscito a dire la maniera con cui gli italiani affrontano il mondo globale, la globalizzazione, il post 11 settembre, la crisi, noi abbiamo portato gli italiani nel mondo davvero. E siamo stati noi a interpretarne le paure, le angosce, le euforie, le balle, i sogni. Questo è stato il grande miracolo, il nuovo miracolo italiano. E francamente ha funzionato. Negli altri paesi questo modello non può funzionare. Non può funzionare, e quindi la Le Pen può prendere pure il 48, ma se non trova chi gli dà quel 3, non vincerà mai. Prende pure il 49, non ce la può fare, non ce la può fare. E probabilmente lei ha già introiettato che lei non ce la può fare, ci vuole un altro, cioè le europee hanno dimostrato sta roba, ci vuole un altro. La strategia di Macron delle elezioni anticipate, che sembrava un suicidio, ha funzionato. Cioè se chiede ai francesi se vuole Le Pen, votano me, se chiede ai francesi se vuoi Mélenchon, votano me, e quindi vinco io. Cioè, sembrava un suicidio di Macron, invece è stato un tempismo incredibile che ha funzionato. La stai, adesso ne farà un altro, cioè nel senso non è un rischio calcolato. Certo. Vai. Ma a proposito di elezioni, quanto le prossime elezioni in Germania possono essere, diciamo, lo spartiacque della politica tedesca, ma in generale anche di quella europea. Ma allora lì c'è un tema che Alternative for Deutschland ha compattato il suo voto nell'est. Infatti Alternative for Deutschland la paragonano alla Lega in Germania, se leggi i giornali. C'è un partito che ha una parte regionale, cioè una parte dello Stato a livello geografico in cui è molto forte, che lì corrisponde ai Länder dell'Est e corrisponde all'ex-Est Germania, che effettivamente, tenendo presente che adesso la Germania adesso è in crisi, cioè la Germania non ha avuto la crisi negli anni 10, quindi avrà la risalita dei partiti di destra, cioè l'avanzata adesso, perché adesso è in crisi, adesso è in recessione, adesso chiude la Volkswagen. Nell'est, che è già stato bastonato da una riunificazione di rapina, fondamentalmente, perché l'Ovest l'ha rapinato, questa è la verità, l'ha rapinato, l'ha reso disoccupato, l'ha reso precario e l'ha reso in qualche maniera tedesco di serie B, questa è la verità. Nonostante paradossalmente abbiano speso valanghe di soldi, però sai, se tu chiudi tutte le industrie dell'est concorrente a quelli dell'ovest, tu puoi pure spendere programmi sull'integrazione milioni e milioni di euro, e lo hanno fatto, però la cosa non funziona. Allora lì i conservatori, cioè la CDU, accordi con Alternative for Deutschland non ne farà manco per un'assemblea di condominio, mai. Il punto qual è che fa Alternative for Deutschland? Perché per parlare di ste robe, ragazzi, bisogna studiarsi le costituzioni, i sistemi elettorali, cioè quelli hanno il doppio turno, e allora è una storia diversa. In Germania hanno la Camera regionale e la Camera nazionale. E questo è il punto. Quindi se Alternative for Deutschland ha tanti nel locale, poi, infatti, questo è Alternative for Deutschland, nel 2013 si fonda e fallisce. Loro puntano al Bundesrat, cioè puntano al voto regionale, perché hanno delle regioni in cui sono forti. Questo è il punto. Cioè, allora, Alternative for Deutschland, il suo progetto è dire: guardate che a noi non ci potete ignorare. Sì, siamo nazisti, ma a noi non ci... Ormai ci sono pezzi di Alternative for Deutschland che hanno perso delle diatribe, che del governatore della Turingia, quello che ha vinto in Turingia, ma non governa, ovviamente, il Porsche. Questi sono stati, diciamo, definibili fascisti, perché hanno perso delle cause per diffamazione e sono definibili fascisti addirittura. Non è uno scherzo in Germania essere così. Quindi Alternative for Deutschland se la gioca sul locale, ma perché? Perché hanno la doppia camera, ma nessuno al Bundestag, cioè questi dovranno farsi notare. Poi sono riusciti in una cosa molto interessante davvero, a svuotare il voto dei Verdi. Cioè che è una cosa, noi non penseremmo mai che la Meloni recupera su Sinistra Italiana. Cioè, non ci verrebbe mai in mente. Lì è successo, perché l'est è diventato un pandemonio da questo punto di vista, quindi si è creata talmente un'ostilità verso i partiti che hanno fatto la riunificazione e li hanno lasciati così, li hanno abbandonati paradossalmente, pur spendendo l'ira di Dio in progetti sociali o di integrazione che non hanno minimamente funzionato, però parliamo di volumi di soldi giganteschi, cioè parliamo di volumi di soldi che ha speso l'est, l'ovest, puntando dal punto di vista culturale, che sono una finanziaria di un paese, di medio paese europeo in 30 anni, cioè in 40 anni sarà roba formidabile, diciamo, ma non ha funzionato perché il lavoro manca, hanno stipendi nettamente minori. Quindi Alternative for Deutschland, che era partita come progetto nazionale, anzi i fondatori erano la Germania Ovest, diceva è il partito dei professori dell'Ovest, perché erano tutti professori universitari di economia, giurisprudenza o storia, e del voto dell'est. Poi progressivamente ha avuto l'idea dell'est e si è spostata moltissimo su quelle posizioni lì. Oltretutto adesso è nata una frazione di Linke, che è questa di Savira, tra Sara Bari, sì. Che è la spina del fianco di Alternative for Deutschland lì, perché il voto della Linke viene dal vecchio voto della PDS, che viene dal voto della SED, quindi dell'ex partito comunista dell'est, quindi la vera angoscia è quella. Ma Alternative for Deutschland punta a essere talmente influente dal punto di vista locale nel Bundesrat che non sarà una forza di governo. Io credo che loro, queste sono delle consapevolezze, però sai, la propaganda la intensifichi, perché più ti fai notare. È come la Lega, ragazzi, è come la Lega. La Lega sembrava un movimento di pazzi, per la politica della Prima Repubblica. Poi sono diventati talmente influenti che non potevano governare, è vero, hanno preso Milano, ma per 2 anni poi è caduta quella giunta, non potevano governare, ma vabbè, Berlusconi ha avuto questa idea geniale di tirarli su. Ma era un movimento di pazzi che veniva definito a Pontida di partite IVA di evasori vestiti da vichinghi. Questi erano i giornali che parlavano di dentisti evasori vestiti da vichinghi, cioè una cosa folk fuori di testa, però sono riusciti a essere così rappresentativi, ma anche a livello propagandistico, il nord, i bossi, che sono diventati ineliminabili. Cioè, voglio dire, la Lega è stato un piccolo partito fino a Salvini, La Lega è del 91, è stata un piccolo partito, ma veramente piccolo. Piccolo. Cioè, noi pensiamo a Salvini, ma quelli sono stati il 6-7% o il 5% per anni. Senza il proporzionale non sarebbero entrati loro. Senza la legge elettorale, senza quella quota di proporzionale del 35% non sarebbero entrati. Quindi, sapete, facciamole fare sta roba qui. Cioè, devo essere talmente visibile. Io sono il voto dell'est, io sono il voto dei poveri, io sono il voto di chi è scontento della Germania. In una Germania impoverita, io devo fare talmente paura che prima o poi mi telefoneranno. Questa è la loro strategia. Io personalmente, per come conosco la Germania, la escludo questa cosa qui. A meno che, diciamo, non ci sia un tracollo. Tenete presente che la Germania, la vera questione in Germania è che loro hanno dei partiti che hanno progettato alla fine dell'Ottocento. Quindi, come dire, è un'offerta politica molto vecchia, come è successo anche in Austria. L'Austria noi non ci badiamo mai, ma l'Austria è il secondo paese dove la destra post-fascista ha governato, l'Austria. L'Austria è il secondo paese dove adesso il post-fascista ha governato anche bene, quindi l'Austria dovrebbe essere un po' più guardata. E in Austria i socialdemocratici sono spariti, come in Francia. Mélenchon ha eliminato, voi vi ricordate quando avevamo i socialisti francesi? No, non li sentite più nominare. Mélenchon si nominerà la Le Pen. Cioè, quindi i socialdemocratici tedeschi hanno questa grossa paura, Scholz, questa grossa paura. Oltretutto loro non hanno nomenclatura dell'est. Scholz è l'ex sindaco di Amburgo, che è una delle città rosse lì, borghesi ma rosse, va detto, e quindi questi non hanno anche gente dell'est, avrebbero bisogno di gente dell'est, ma non ce l'hanno, quindi provano a tenere duro, ma a tela di furtaccia ci faremo tanto notare che prima o poi ci chiama qualcuno, e ci chiama qualcuno della CDU. Però è lontana da venire questa cosa qui. A voler essere cattivi, la scissione di Link è stata una scissione a destra, quasi rossobruna, e per questo riescono ad essere la spina nel fianco al territorio Deutschland. Sì, va detto che però è vero questo, ma è vero sulle immigrazioni, è anche vero che hanno un programma, cioè questa cosa qui di Sarah Wagenknecht che fa la lista su di sé, insomma ha delle buone affermazioni con una lista che ha il suo nome, cioè ci dimostra anche, cioè in Germania stanno andando bene i partiti che sono nuovi. Questo ci dimostra che, come dire, questa offerta politica fine ottocentesca è un po' passato, cioè insomma la gente non è che vuole votare sempre lo stesse lettere, capito? I partiti nuovi, c'è in qualche maniera anche l'idea di proviamo anche questi. Lei ha un programma di riforme sociali estremamente radicale, mentre invece a Tradi für Deutschland è liberista. Questa cosa è una battaglia fra Stato e privatizzazioni anche, quindi diciamo in un contesto ex statalista totale come la Germania dell'Est, reso povero perché reso neoliberale con brutalità. Quindi quella è un'altra storia ancora dal suo punto di vista. E guardate, studiando le destre, questo è il bello, che trovi delle cose diversissime, che però, devo dire la verità, analizzare non è così semplice. E i sistemi elettorali e costituzionali sono determinanti, motivo per cui vogliono cambiare tutte le costituzioni. Non si capisce perché le vogliono cambiare tutti, però poi hanno delle grandissime affermazioni. Se ha delle grandissime affermazioni, vuol dire che le regole del gioco vanno bene, no? Invece, perché le vogliono cambiare? Perché le regole del gioco gli tolgono proprio questo. Perché la Meloni vuole fare il premierato, che vuole governare da sola? vuole un premio, certo, di maggioranza. Quindi è vero che hanno delle grandissime, però inquadrano che il problema è costituzionale. Ciga in Portogallo vuole il cambiamento costituzionale. E non è un caso che sta roba succede nei paesi che hanno cacciato o hanno avuto delle dittature fasciste o sono stati antifascisti, perché quelle costituzioni sono progettate per avere pesi e contrappesi. E quindi, essendo delle costituzioni che sono state progettate in senso afascista, questa cosa qui gli crea dei problemi a dei partiti fortemente populisti e di quell'idea lì. Non è soltanto che alla Meloni gli dà fastidio che c'è la Costituzione che è nata la Resistenza, anche perché quella cosa culturale l'ha anche sconfitta. Gli dà fastidio che c'è il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Questo gli dà fastidio, vuole il Premier. A quell'altro gli dà fastidio il doppio turno. A questi gli dà fastidio che non si riesce così immediatamente a incidere nel Bundesrat perché conta meno del Bundestag. Quindi, infatti, i paesi che hanno i maggioritari in misto proporzionale li fanno impazzire, perché sono fantastici, mentre invece il presidente, ovviamente il Portogallo, che fa la rivoluzione dei garofani, fa una rivoluzione, cioè fa una costituzione democraticissima, la Spagna post-franchista, idem, per cui quelle che sono iperdemocratiche, in cui hai parlamenti potenti, hai presidenti della Repubblica, presidente del Consiglio, hai la magistratura completamente sganciata, e lì è un macello per i fascisti. Quindi è chiaro che, perché altrimenti non si capirebbe perché queste regole del gioco le vogliono cambiare tutti, anche se gli vanno bene, anche se stravincono. È perché quelle sono le regole del gioco che gli fottono, scusate il francesismo, quel pezzettino lì che gli manca. Lia, noi siamo arrivati alla fine, però dobbiamo farti l'ultima domanda. Te la farà Raff. Ah, una domanda che abbiamo, che è comune a tutti, abbiamo fatto a tutti, quindi la facciamo anche a te. Cosa significa oggi essere fascista nel 2024, quasi 25? Significa, come diceva Julius Evola, voler difendere il sangue e la terra di una patria che non esiste. Questa è la verità. Cioè loro si devono sempre inventare una patria. Una patria che esiste da sempre, nei suoi confini, nella sua cultura, nella sua lingua, nella sua religione, nella sua cucina, nella sua famiglia, nelle sue tradizioni, devono difendere una patria che non c'è, un qualcosa che non c'è, e quindi in primis devono utilizzarlo e propagandarlo. Questa è la verità. Perché il loro grande obiettivo è che noi non siamo tutti uguali. Questa è la verità. La verità è questa. Quello li tiene uniti. Gli uomini non sono uguali. E questa cosa qui è uno stravolgimento della storia rispetto alla natura, e la patria si fonda sulla differenza. E loro sono i soldati di questa cosa qui. In un'unica trincea. Il termine camerata significa che combatti nella stessa trincea, la stessa guerra, ma i soldati sono diversi. E quindi la guerra è comune e la trincea è multipla. E di fondo la foto di famiglia per loro non si esclude mai nessuno. Nella guerra contro l'uguaglianza c'è posto per tutti. Questo è il loro grande obiettivo. Noi ti ringraziamo per questa bellissima e lunghissima chiacchierata. Veramente grazie a voi. Veramente grazie.